Stefano. Ci cucca male 10, c'è qualcuno in ascolto? Ci cucca male 10, c'è qualcuno in ascolto? Togliete che c'è la pasta. Attenzione, gaffa. Il cursore che schiacciami e ho fatto anch'io, ho soffiato, ma devo la compresa, ho vedo anche un prodotto spray che trovo il sistema, capito, perché era sempre buttato fermo da parte di quel baracchino. Allora i baracchini, se tu non li usi spesso, devi accenderli, e io non ho mai fatto cazzo. E il microfono è quello lì, bisogna, ovvero che, ma quello, cosa c'ha? Quattro punte quello dello spinotto, vabbè, quello c'è quattro punte, quello normale nero con quattro fuori. Cosa vuoi dire nella sola? Ok, dai, adattiamo questo altro microfono che ho io, questo è più nuovo, cazzo, vediamo un po', e dell'SBE, quello è bellino, che è carino, piccolino nero. GS è uscito, ma non mi distanzia perché c'ho messo coso qua, Elena è più c'ho coso, cazzo, c'ho mio fratello, capito? Però non vedo mai nessuno, non vedo subito. Tony, ma dove sei proprio i denti? Allora, devi schiacciare, poi aspetti qualche secondo, poi parli, perché sennò parli e non ti sento, poi ti sento di colpo. Tony, ma stai parlando da solo? Sto dentro da Azzurra. C'è un bel forte, e anche... C'è qualcuno su 10? Sì, bisogna controllare col microfono, Roberto. Cavazzacchi, ma si va a vedere l'Azzurra? No, sto parlando da solo, sto parlando con Roberto, che c'è l'Atenino. Ah, sì, tu vuoi mantenere il sciuno, Non senti niente di niente? No, non arriva proprio a nulla, a zero. E qua rema non ne ho, Dov'è? Vicino a te? Cappa. Oh, Robè, ma non te ne hai sposato? È strano, perché lui non ti sente, lui è al monte, mi. Cosa? Oh, yeah. Luca, eppure dovessi sentire, perché siete a filo d'aria, ti deve sentire per forza. Chi è che ti sentiva? Aspetta, non mi ricordo. E allora oggi si sente basso basso, comunque dovesse arrivare anche al monte, dovesse arrivare. Perché prima arrivavo, ho si girato l'antenna, comunque ciao Luca. Ciao Tony. Eia, comunque, li mettiamo questo altro microfono, dai Robè, è l'unica, dai. Perché c'ha quel cursore. Cosa vendono Luca per il microfono? Quando ormai è un bel tempo fermo, cioè, capito che fa? Esce a tratti, poi esce più forte, poi più basso. Non ho capito, scusa. Un microfono, un mic, quando tu lo ti fermo un bel tempo, poi lo vai a parlare, esci basso, poi a volte lo esci, poi esci un po' gracchiante. Sa... Come c'è il PTT da pulire, solamente quello. E così sono i... come si chiamano i... No, carboncini, vabbè, comunque vuole pulito. Basta mettergli un po' di prodotto. Io gli ho detto una puntina di CRC, se vuoi di 40. E io ce l'ho quello di CRC, ma non è che si passa di 104 come piccio. Sì, ma ci vuole. Io una volta non uscivo a questo microfono dell'Intec MB40. Però non andava. Io adesso abbiamo spruzzato un po' di CRC. Si era ripresa, era perfetto. Hai capito, Robè? Antenino che è un bel piccolino con il cazzo. Chissà non è ancora bucato, dovrebbe. Ma non c'era che è tuo cognato quei, sotto Iena, bu. Vabbè. Ma se io ti conosco la tu ci sarei a toglierlo. Ah, quindi bisogna aspettare, dai. Ah, ci capite. Allora, meno male che comunque mi sveglia è influenzata, quindi non può far nulla, ma comare. Già ribasso l'influenza. Io domani devo uscire presto. Devo accompagnare il vecchietto all'ospedale. Devo andare a fare dal fisiatra. E io. E poi dopo domani mattina devo uscire a Rizzi che mi zero. Anche devo accompagnare il vecchietto a Ciri. Devo fare la cataratta. Domani dopo sì, purtroppo sì, la sera sono libero però, calma. Per il pomeriggio a me va bene, capito? Se vuoi andiamo il pomeriggio domani. Anzi, aspetta, no, il pomeriggio dipende dalla telefonata che devo fare domani. Domani te lo spiego. Avanti Luca. Luca sei imputato. E io. Anda bene Meda, sì, ci vuole l'antenna, dai, vabbè, non ci può modulare con l'antennino, sai io. Boh. A me forse la trova. Cazzo, fa di polo forse è meglio a me, lo sai. 205, cavo elettrico una parte 205, il cavo RG58, quello grigio che ti ho dato a te io prima. E polo caldo a destra e la massa, la calza a sinistra, si saldano, ta-ta-ta, e scendi col PL e attacchi quello di polo, già lo sai di polo come è fatto. E lì già ne hai spazio a voglia. Soltanto che non c'ho il rosso della controllare stazionale. Ma già procuro il rosso. Perché se sta a molto stazionare bisogna tagliare una cazzatina piccolina alla parte di quel filo elettrico, si intende sempre. Una a destra e a sinistra, uguale, ambedue le parti, fino a far scendere stazionare. E già esce di polo, non è mica. Lo uso anche nei motori di polo, certo sono più mastodontici, però con di polo escono lo stesso, che cavolo. Sì, un quarto d'onda si può fare. Ui. E tu, solo sei in casa. Non ho capito. Silizio, ma aspetta che io mi avvicino e ci potevo dire una cosa. Ok, chiudo, chi c'è l'ascolto, ciao Luca, ciao.